Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Banche parla, Visco, Renzi, mi chiese di Vicenza ed Etruria, e su Boschi incontrò Panetta ma non chiese interventi. Manovra dimezzata la web tax, il canone Rai resta 90 euro, norme per semplificare gli atti dei processi. Maxi operazione contro la tratta delle nigeriane a decine fatte prostituire per pagarsi il viaggio in Italia. La Cina rimuove il bando per le carni bovine dal nostro paese, era in vigore da 16 anni, il sistema Italia ha funzionato, dice Federalimentare. C'è un'astronoma italiana fra i 10 personaggi scientifici del 2007, secondo Nature, riconoscimento enorme, una sorpresa, ci dice. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, mentre invece oggi abbiamo qualche problema con la diretta video su Facebook e quindi là non ci potrete trovare. Nel frattempo potete andare sulla pagina di Effetto Giorno, cliccare mi piace, attivare le notifiche per quando siamo in diretta. Dall'altra parte del vetro Laura Faggin in assistenza in redazione, Filippo Oreggi in regia. Iniziamo anche oggi dalla questione delle banche, perché questa mattina c'è stata l'audizione del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Audizione che è ancora in corso dalle 10 di questa mattina, e il governatore di Banca Italia Ignazio Visco ha tirato in ballo Matteo Renzi. L'allora presidente del Consiglio chiese di Banca Etruria, per la quale il numero uno di Palazzo Koch non aveva particolare interesse, perché è un istituto di credito piccolo e di territorio. Ma sentiamo le parole di Visco. Fui colpito particolarmente quando ebbi un incontro con il Presidente del Consiglio, una richiesta di informazioni. Del Rio e Padova erano entrambi presenti e io, e parlammo di economia italiana, economia mondiale. Dopodiché lui chiese effettivamente: ma perché questi di Vicenza si vogliono prendere questi di Arezzo? E parlò degli orafi. Ora io non risposi, io la presi come una battuta. Ci fu poi un incontro tra l'allora ministra Maria Elena Boschi e il vice direttore di Palazzo Koch Fabio Panetta, ma nessuna richiesta da parte della ministra, solo legittimo interesse per il territorio, dice Visco, che parla poi del ruolo di Banca Italia nella crisi, mai fatto pressioni su nessuno per favorire la Banca Popolare di Vicenza o sollecitare un intervento. E riguardo invece alla crisi in generale, Visco precisa che nessuno ha mai detto che andava tutto bene e la mala gestione di alcune banche ha fatto esplodere situazioni patologiche. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Resta dunque il punto politico e l'attenzione ai riflettori che sono concentrati su Maria Elena Boschi. Il caso Boschi preoccupa il Partito Democratico, sempre più sotto pressione per le continue rivelazioni che emergono dal lavoro della commissione d'inchiesta sulle banche. Il tentativo di spostare l'attenzione sulle responsabilità delle autorità di vigilanza al momento non sembra aver dato i frutti sperati, e la questione banche rischia di restare al centro dei prossimi mesi di campagna elettorale. Matteo Renzi comunque continua a difendere l'operato della sua fedelissima, le opposizioni restano invece all'attacco. Dal Movimento 5 Stelle oggi Di Battista torna a chiedere le dimissioni della Boschi, accusandola di aver usato il suo ruolo istituzionale per gli affari di famiglia. Da Forza Italia, oltre alla Boschi, Toti tira in ballo tutto il governo per la gestione delle crisi bancarie. Il leader della Lega Salvini invece se la prende con Visco e assicura che, una volta al governo, riporterà Banca Italia sotto il controllo statale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo agli aggiornamenti dalla manovra. Via libera la riduzione della web tax dal 6 al 3% e canone Rai a 90 euro anche nel 2018. Sono alcune delle ultime novità previste dagli emendamenti alla manovra votati o ancora all'esame della Commissione Bilancio della Camera. Nel corso della notte la Commissione ha intanto approvato il primo pacchetto di emendamenti presentato dal relatore, il PDino Francesco Boccia. Fra le novità più rilevanti c'è appunto la riduzione della web tax, che non sarà estesa al commercio elettronico ma tasserà i proventi dei giganti del web. Disco verde anche per 105 milioni in più per i dirigenti sanitari. Italia 25 milioni per la salvaguardia della laguna veneziana. Alla ripresa dei lavori della Commissione, questa mattina il relatore Boccia ha presentato un nuovo pacchetto di emendamenti e fra le novità all'esame c'è la conferma del canone Rai a 90 euro anche per il prossimo anno. Una norma poi per velocizzare i processi civili e penali che prevede atti più sintetici e chiari e l'anticipo dell'entrata in vigore delle nuove regole europee per la tracciabilità dei farmaci. Critiche arrivano dall'opposizione. Secondo Forza Italia, la manovra alla Camera è stata trasformata in un suc, dice Renato Renato Brunetta. È l'acido del PD agli italiani, con mance e marchette e nessuna strategia di sviluppo. E per Stefano Fassina, deputato di Sinistra Italiana, la nuova web tax è un regalo di Natale del PD a Google e agli altri giganti dei servizi su internet. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Veniamo ai fermi, l'operazione di questa mattina, i fermi per la tratta delle nigeriane. Una vera tratta di donne nigeriane, quella scoperta dai carabinieri di Lamezia Terme, che hanno fermato nell'Ametino, ma anche nel Regino e a Livorno, 7 persone, tra cui un italiano e 6 nigeriani. Sono accusati di far parte di un'organizzazione in grado di far arrivare clandestinamente in Italia decine di giovani nigeriane, costringendole a prostituirsi, anche con violenze e minacce e perfino con riti di magia nera, per ripagare il debito contratto per il viaggio di circa 30.000 euro. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, acquisto e alienazione di schiavi, immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione con l'aggravante della transnazionalità. Le indagini, coordinate dalla DDA di Catanzaro, iniziate ad inizio anno dopo la denuncia di una delle vittime, hanno permesso di individuare una pericolosa organizzazione che avrebbe ramificazioni in Nigeria e in Libia. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. Il commento di Giampaolo Musumeci. Le organizzazioni criminali nigeriane da anni sfruttano le donne provenienti soprattutto dal sud del paese e il fenomeno è in costante ascesa. Se le strade italiane e europee sono il punto di arrivo, il punto di partenza è Benin City, capitale dello stato di Edo. I numeri della tratta sono impressionanti. Nel 2014 sono arrivati in Italia via mare 1.450 nigeriane, in buona parte minorenni, 5.600 nel 2015, 11.000 nel 2016, 4.000 nei primi sei mesi del 2017. L'80% di loro, stima l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è destinato al mercato della prostituzione. L'85% di loro viene da Benin City, un mercato da centinaia di milioni di euro. Il sistema è semplice. I reclutatori in Nigeria trovano giovani ragazzi in cerca di un lavoro in Europa e viene promessa loro una vita migliore. Ed è facile perché lo stipendio medio è di circa 80 euro. Il viaggio però costa alcune migliaia di euro e qui entra in gioco lo sponsor o la cosiddetta madame che sta in Italia, a Torino o a Padova per esempio. È lei che paga il viaggio attraverso la Libia e il trafficante. Una volta in Italia, la ragazza finisce nelle mani della cellula italiana dell'organizzazione e è costretta a prostituirsi per ripagare il debito che oscilla tra i 20.000 e i 50.000 euro. Il sistema coinvolge le famiglie nigeriane che spesso spingono le ragazze a partire, desiderose di avere rimesse economiche dall'Italia. Coinvolge i preti Juju che legano le donne agli aguzzini con riti magici e per i quali si fanno pagare. Coinvolge scuole, religiosi locali, piccoli e grandi trafficanti. Un sistema, appunto, in cui tutti guadagnano sulla pelle delle vittime, quelle che vediamo ai lati delle strade italiane. Così dunque il nostro Giampaolo Musumeci, che, ve lo ricordiamo, torna con una serie di puntate speciali di Nessun Luogo è Lontano, la prima il 25 mattina alle 8, se siete svegli il giorno di Natale, beh, mi raccomando, non perdetevela. Restiamo all'estero e parliamo del presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca, che è a Damasco. Valentina Furlanetto lo ha raggiunto appunto in Siria per farsi raccontare un po' come stanno andando le cose. Sotto il profilo della sicurezza sicuramente molto migliorato, sotto il profilo invece dei bisogni, ora che c'è anche più possibilità di accesso, è ovvio che sono enormi. Una situazione in cui ovviamente manca tutto, quindi noi stiamo provvedendo da un lato con cibo rifiutario e quello di cui c'è per necessità, dall'altro lato con il supporto psicosociale, perché qui adesso l'importante è concedere l'espressione che magari può suonare retorica, ma in realtà è quello che noi viviamo, i nostri operatori vivono quotidianamente. Ricostruzione dell'anima, cioè qui ci sono ferite profonde, qui ci sono persone che hanno perso parenti, figli, mariti, e questo è l'aspetto su cui oggi si deve lavorare. So che avete incontrato Assad, il presidente siriano. Sì, parleranno i fatti, ovviamente io sono stato molto chiaro sulla necessità di un accesso umanitario incondizionato. Io sono cautamente ottimista, adesso poi parleranno i fatti sul terreno. Così dunque Francesco Rocca. È stato rimosso il bando, e questa è una buona notizia per l'Italia, sulla carne bovina italiana, appunto, un bando che era in Cina appunto e durava da 16 anni. Abbiamo sentito Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare. Sicuramente un riconoscimento importante, perché quel mercato è un mercato dalle enormi potenzialità da cui eravamo assenti da troppo tempo, ma soprattutto rappresenta il successo di un nuovo modello di fare diplomazia economica. Il sistema Italia questa volta ha funzionato, i responsabili tecnici del Ministero della Salute, l'ambasciatore italiano in Cina, insieme a noi, ai nostri tecnici e alla nostra presenza, siamo riusciti a superare tutta una serie di difficoltà e quindi ad inaugurare con il paese probabilmente più difficile un nuovo modello che adesso vogliamo applicare a tantissimi altri mercati che vogliono e chiedono i nostri prodotti del food and beverage italiano. A cosa era dovuto questo bando e che tempi ci saranno poi per l'effettiva eliminazione di questo bando? In realtà il bando era diventato ormai antistorico, era stato adottato dopo la famosa crisi della BSE, ma il nostro paese ha dimostrato ormai da anni di essere completamente al di fuori di questa emergenza, quindi era un po' un perdurare poco motivato. Ne ha però preso atto finalmente l'amministrazione cinese, non sarà un ritorno immediato, era sicuramente l'ostacolo più difficile da rimuovere, adesso bisognerà elaborare le certificazioni necessarie agli scambi, riconoscere gli stabilimenti, quindi verosimilmente se agiremo con lo stesso metodo ed efficacia, io direi nel giro di 8-10 mesi speriamo di completare tutte le procedure. E questo appunto per quanto riguarda il bando cinese della carne bovina italiana. Vi do conto delle dichiarazioni che arrivano in questi minuti da Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, in merito all'audizione, quella della quale vi abbiamo parlato in apertura, del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha parlato dello stesso Renzi. Dice Renzi: ringrazio molto il governatore Visco per le parole di apprezzamento che ha rivolto al mio governo nella sua audizione. Mi fa piacere che fughi ogni dubbio sul comportamento dei ministri. Nessuno di loro ha mai svolto pressioni, ma solo legittimi interessamenti legati al proprio territorio. Attività istituzionalmente ineccepibile. Ringrazio infine Renzi Visco perché ha messo la parola fine a settimane di speculazione mediatica e di linciaggio verbale verso esponenti del mio governo. Queste dunque le parole e la reazione di Renzi. Sarà estradato oggi in Italia Maurizio Tramonte, autore della strage di Piazza della Loggia. Daniele Biacchessi. Maurizio Tramonte non è un uomo qualsiasi nella galassia dell'evasione nera degli anni 60 e 70 in Italia, perché Tramonte appartiene alle cellule di Ordine Nuovo in Veneto, con Carlo Maria Maggi come referente politico, e ricopre il ruolo di fonte tiritone per conto dei servizi segreti, il SID. Per i tribunali, Tramonte e Maggi restano i colpevoli ancora vivi del massacro in Piazza della Loggia a Brescia, 28 maggio 1974. 8 morti, 100 feriti. Di Tramonte e del suo volto nascosto resta una foto ingiallita. Rivela che in Piazza della Loggia a Brescia c'è lui che assiste da vicino allo strazio dei familiari degli 8 morti. In Piazza della Loggia alle 10:12 del 28 maggio del 74 ha appena smesso di piovere dopo lo scoppio della bomba. C'è Arnaldo Trebeschi inginocchiato accanto al corpo senza vita del fratello Alberto, 36 anni, un fotografo scatta la scena. Dietro al cordone, tra una donna, una pertica posta di spalle e il sindacalista della FIOM Piero Faversan, si intravede un tizio minuto, i capelli a caschetto. È Tramonte, la fonte tritone infiltrata dal SID in Ordine Nuovo, uno degli organizzatori materiali dell'eccidio, secondo i magistrati. Oggi Tramonte è tornato in Italia, è estradato dal Portogallo. Per lui non è scattata la solidarietà della centrale nera che ha fatto scappare negli anni testimoni, esecutori e mandanti delle tante stragi che hanno insanguinato il nostro paese. È finita la vicenda di Spelacchio, l'abete di Piazza Venezia. È finita una notizia triste. Attenzione, è scomparso prematuramente il povero Spelacchio, l'abete acquistato dal Campidoglio per allietare le feste di una città non più eterna. Sempre più spoglio e inutilmente illuminato proprio in Piazza Venezia, di fianco al milite ignoto, anche lui perplesso per quel povero alberello, Spelacchio non ce l'ha fatta. Troppo spoglio, troppo secco, anche senza radici un abete rosso dura almeno 2 mesi, dicono i fornitori della Val di Fiemme, rigettando sulla giunta Raggi le responsabilità per l'inopinata fine di Spelacchio, simbolo di una città incapace anche di farsi gli auguri. Mentre il severo Kodakons chiede l'immediata rimozione del cadaverino e l'accertamento dei danni, già si sprecano nuovi sberleffi contro la sindaca Raggi. Non abbiamo cuore per farne altri. L'importante, come scrive un buon tempone, che adesso le spoglie di Spelacchio non vengano ospitate al Pantheon. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, posto che di Spelacchio, beh, è un argomento troppo importante, torneremo a parlare tra poco, inizieremo il nostro Giro d'Italia, inizieremo però da Palermo, Palermo dove c'è una storia che a nostro giudizio ha dell'incredibile, perché sono stati bloccati gli stipendi, rischiano di essere bloccati gli stipendi, sicuramente bloccate le tredicesime dei dipendenti dell'azienda del trasporto pubblico locale. Perché? Perché c'è una causa intentata da altri dipendenti, iniziata nel 1991 e che si è conclusa adesso 26 anni dopo. Traffico. Meraviglioso. In Italia siamo così abituati alla meraviglia che a volte non la notiamo, quando in realtà è ovunque, anche nei campi dove Orogel coltiva da sempre le verdure migliori, seguendo il ritmo della natura, curando ogni dettaglio dalla semina al raccolto fino alle vostre tavole, per farvi riscoprire in ogni piatto tutta la meraviglia della nostra terra. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Meraviglioso. Progettare il futuro delle smart cities richiede soluzioni innovative in chiave di sostenibilità, mobilità, sicurezza e comfort. ABB, protagonista nelle tecnologie per l'energia e l'automazione, porta nelle nostre città il valore della digitalizzazione, grazie a prodotti smart e servizi avanzati progettati per garantire l'efficienza di energie rinnovabili, edifici intelligenti e mobilità elettrica. ABB, una competenza solida e dinamica al servizio del futuro delle nostre città. ABB, let's write the future together. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'audizione del governatore di Banca Italia Visco davanti alla commissione banca, nella quale ha parlato anche di Renzi e di Boschi. Abbiamo parlato della manovra, della maxi operazione contro la tratta delle nigeriane, della Cina che ha rimosso il bando per le carni bovine dal nostro paese. E abbiamo parlato anche di Spelacchio e ci torneremo tra poco. Il nostro Giro d'Italia però inizia da Palermo. Palermo dove sono stati pignorati i conti dell'azienda di trasporto pubblico locale. Yolanda Riolo è assessore alle partecipazioni comunali, innovazione e mobilità del Comune di Palermo. Buongiorno, benvenuta Riolo. Buongiorno, grazie dell'invito. Eccoci qua. Dunque, la cosa che abbiamo trovato veramente incredibile di questa vicenda è che tutto questo avviene in seguito ad una causa che è stata intentata addirittura nel 1991, ho capito bene? Sì, purtroppo questa è la notizia. Chiaramente anche noi siamo rimasti un po' stupiti, ma conosciamo un po' i problemi del, diciamo, che a livello giuridico riguardano l'Italia, e questo è un esempio. 26 anni ci sono voluti per questa settimana. Un po' triste perché sì, non dà stabilità alle aziende, chiaramente. Ci mancherebbe altro. Ma che sentenza è? Riguardava degli altri dipendenti dell'azienda, ho capito sì, bene? Che chiedevano effettivamente un salto di livello. Probabilmente all'epoca c'era anche un po' questa tradizione, parliamo degli anni 90, non so se vi ricordate un sì, po'. Un periodo un po' effervescente, però effettivamente loro hanno, diciamo, l'hanno avuta vinta, quindi questa è la notizia. Cioè, di fatto loro chiedevano, che cosa facevano? Hanno fatto causa all'azienda perché chiedevano un livello superiore, no? Dal punto di vista contrattuale e immagino anche di stipendio. E per 26 anni tutto ha taciuto finché non è arrivata una richiesta di pignoramento? Sì. Sì, sì, in un momento tra l'altro delicato, perché è ovvio che il Natale con la tredicesima per un'azienda non è mai un buon momento, purtroppo, tristemente, anche persino per le aziende private, figuriamoci per un'azienda del comune che è interamente partecipata dal comune, che quindi non vive mai di, diciamo, grosse risorse, soprattutto dopo quello che è accaduto quando diciamo anche la regione non contribuisce in maniera sostanziosa come avveniva in passato. Voi sapete che in passato chiaramente queste aziende avevano degli introiti che permettevano una una vivibilità maggiore. Ascolti, come ne usciamo? Ma intanto noi ne usciremo comunque, perché assolutamente i dipendenti avranno la loro tredicesima. Noi ci siamo mossi stamattina, io ho sentito il presidente dell'AMAT che sta facendo le umane divine cose. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore si avrà una notizia positiva, quindi si stanno trovando comunque gli strumenti per accedere a delle risorse. Sarebbe meglio sempre per un'azienda avere non farsi mettere in ginocchio da questi accadimenti sporadici e da queste sopravvenienze che non sono chiaramente a budget. Purtroppo ripeto, il tema diciamo è molto più generale, riguarda l'adeguatezza per queste aziende che gestiscono il traffico il TPL, specialmente in Sicilia, queste risorse disponibili purtroppo non vengono conferite con regolarità, soprattutto non in quantità sufficienti, per cui non sempre si può anche là, bisognerà ragionare su quello che si può o non si può tagliare all'interno di queste stesse aziende in termini di efficienza, insomma, però questo è tutto un altro discorso. Era su questo che volevamo soffermarci. L'azienda, servono 4 milioni e mezzo per pagare gli stipendi di dicembre e 1,8 milioni per le tredicesime. Prima di tornare sulla terra, la terra che ha ospitato Spelacchio, l'abete di Piazza Venezia, parliamo del cielo, perché c'è un italiano, un astronoma, nella lista di Nature dei 10 migliori scienziati del 2017. Si chiama Marica Branchesi, ha 40 anni, è di Urbino, ha due figli piccoli, è stata precaria fino all'estate scorsa. L'ha intervistata Valentina Furlanetto. Non me l'aspettavo, perché è un riconoscimento enorme, quindi è stata veramente una sorpresa e sono estremamente onorata. Ci spiega in cosa consiste questa vostra scoperta? È avvenuto tutto il 17 di agosto. I rivelatori di onde gravitazionali hanno captato un segnale. Subito dopo c'è stato un lampo gamma e subito si è capito che era un evento eccezionale, che era questa fusione di due stelle di neutroni. Abbiamo mandato una localizzazione del segnale di onde gravitazionali e da lì è partita la caccia dei telescopi a terra, e la notte hanno osservato un oggetto nuovo in una galassia che è NGC 4993, e da lì per settimane e settimane tutti i telescopi al mondo hanno puntato la stessa zona di cielo e hanno osservato tutti i colori di questo oggetto. E quindi è stato un evento spettacolare e l'inizio di una nuova astronomia che unisce le onde gravitazionali e la luce. Io sono stata un po' un bridge tra le due comunità, ovvero quella dei fisici delle onde gravitazionali e degli astronomi. Io sono un'astronoma e sono entrata nel 2009 nella collaborazione LIGO Virgo di fisici delle onde gravitazionali. E lì ho capito le potenzialità di questa nuova astronomia. Devo dire che è un lavoro che mi piace tantissimo, che mi appassiona, e quindi non lo faccio con fatica, lo faccio con estremo piacere. Orgogliosi che sia una nostra connazionale. Dunque, veniamo, come si diceva, alla terra di Piazza Venezia, la terra che ha ospitato quell'abete che è stato sostanzialmente dichiarato morto, anche se morto era già, dal Dipartimento Ambiente del Comune di Roma, per capire un po' come sia andata quest'anno, che Roma si è ritrovata con un albero di Natale così brutto, così triste, che sta perdendo e perderà tutti gli aghi. Stefano Cattoi è direttore forestale della magnifica comunità di Fiemme, che ha fornito l'albero. Buongiorno, benvenuto Cattoi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Che è stato tra l'altro già ospite nostro, ospite di Oscar Giannino e Luca Telese. Però oggi la notizia è che appunto è stato dichiarato morto, anche se in realtà morto era già, perché l'albero viene fornito senza radici, Cattoi, no? Sì, non c'è nessun dubbio su questo. Ogni tanto, pur di andare sui giornali, tutti ci inventiamo qualcosa. L'albero di per sé, come tutti gli alberi che abbiamo dato anche negli anni scorsi, viene tagliato nel bosco, quindi non viene trasportato con le radici, anche perché sarebbe un'operazione assurda, perché l'abete rosso di quell'età lì non può sopravvivere, ma in generale un albero strappato dal bosco con le radici non riuscirà mai a avere un futuro buono. Ma come... ecco, ci dispiace che sia successo questo, mi consenta un attimo, già sì, che sono in linea, di fare complimenti alla ricercatrice Branchesi, perché sicuramente sta dando lustro all'Italia, e vorrei sottolineare questo sì, è bello dell'Italia, c'è un'Italia che lavora, che studia, sì, che si impegna, così come abbiamo fatto noi, e adesso bene o male, come diceva Giannino l'altro giorno, ma ci dobbiamo portare questa croce. Ci dica la verità, ci dica la verità, Cattoi, avete dato un abete fallato al Comune di Roma? Assolutamente no. No, questo no, no, non lo consenso di dire, perché no, ma... secondo noi rispettava tutti i canoni. Qualcosa, strada, non mi chieda cosa, perché in questo momento non sono... bisognerà fare l'autopsia di Spelacchio. Chiamiamo quelli della televisione, là, che sono bravi, sono parecchi programmi televisivi, facciamo l'autopsia, ma questo non cambia il risultato finale. Senta, Cattoi, potrebbe essere stato... potrebbe essere stata... qualcuno dice che potrebbe essere stata, per esempio, la grande siccità che c'è stata in Italia, può aver fatto sì che l'abete arrivasse in condizioni non perfette, per così dire. Abbiamo discusso tra di noi, sicuramente quest'anno è stato un anno molto siccitoso e gli alberi bene o male ne risentono, magari noi questa siccità di solito nei boschi si vede con ritardo di un anno o due, perché nel primo anno le piante utilizzano molto le riserve che hanno, vedremo gli anni prossimi. Questo è stato tagliato in un periodo in cui ormai non vegetava più, perché i nostri abeti durante l'inverno riposano, no? si rilassano un pochino, e non c'era più succhi, linfa in giro. Abbiamo tagliato, che era bello freddo qua da noi, perché la neve è venuta molto presto, siamo una valle turistica, questo ci ha fatto particolarmente piacere, perché adesso insomma l'industria dello sci lavora bene, tutti apprezzano i nostri impianti e il nostro ambiente. Il fatto poi di passare, mi hanno detto che a Roma le prime settimane di dicembre era particolarmente caldo, può darci, ipotizziamo, uno shock termico. Potrebbe essere uno shock del solito. Potrebbe essere uno shock termico più forte del solito. Sì, guardi che comunque sto shock c'era anche gli anni scorsi, sì, quindi non riusciamo neanche noi a capire bene cosa possa essere. Va bene, l'effetto mediatico è pazzesco comunque. Certo, impressionate, il caso Spelacchio. Dovrò chiedere le ferie per poter rispondere a tutte le interviste su Spelacchio, ma lo dico agli ascoltatori, ma non ve la prendete, non ce l'abbiamo con la giunta Raggi, ma chi se ne frega, gli alberi possono star male, arriva là, magari non crediamo che sia stato trasportato male, ma può essere stato impiantato male, ma di certo non pensiamo che Virginia Raggi abbia con le sue mani piantato Spelacchio dentro Piazza Venezia. Su ragazzi, non è questo il punto. È andata male con l'albero di Natale che doveva rappresentare Roma. Allora, che doveva aiutare i romani a festeggiare il Natale. E poi si scherza un po'. Noi che possiamo sempre far cose pesanti, serie. Le facciamo, ne facciamo tante, le facciamo sempre e ogni tanto ci prendiamo la licenza di una cosa un po' più leggera. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco e proprio per farvi contenti parliamo prima di borsa e poi subito dopo andremo a Como, dove c'è un'ordinanza e il sindaco che sta facendo molto discutere. Ha fatto sì che i vigili di fatto multassero e bloccassero le associazioni che la mattina portano il latte caldo ai clochard. È un tema che incrocia da una parte la lotta a quello che il sindaco definisce il degrado, dall'altra parte il supporto a queste persone che stanno male e non hanno un alloggio. A tra poco. Stressato dalla vita quotidiana? Concediti un momento di benessere. Gli estrattori di succo Urom sono adatti a tutta la famiglia. Facili da usare, dal design elegante e con la speciale Slow Squeezy Technology. Il sistema di spremitura lenta brevettato da Urom, pensato per preservare tutte le caratteristiche nutrizionali di frutta e verdura. Urom, il succo fatto in casa, di alta qualità. Vieni a provare le nuove generazioni di estrattori Urom presso i rivenditori ufficiali che trovi sul sito uromitalia.it.

clochard di Como. È successo questo: c'è stata un'ordinanza del sindaco Mario Landricina, un'ordinanza varata venerdì scorso, che ha fatto sì che questuanti molesti e clochard accampati sotto i portici siano sfrattati da quei luoghi sostanzialmente, e poi i vigili si sono messi al lavoro e tra domenica e lunedì, racconta Il Giorno, hanno multato una decina di persone che chiedevano l'elemosina. La linea dura ha portato anche al sequestro di cappelli, cartoni utilizzati per impietosire i passanti, ma è successo che in questo giro di vita sono finite anche le associazioni che si occupano di queste persone, quelli che sostanzialmente la mattina vanno a portare la colazione, il latte caldo, alla gente che sta là e dorme per strada. E sono state multate anche queste associazioni. Michele Luppi fa parte del gruppo Welcome, Osservatorio Migranti di Como, è la pagina, tra l'altro, Facebook dove è stata pubblicata la lettera di queste associazioni che raccontano effettivamente che cosa è successo. Luppi, allora, lei non è che ci fosse là quel giorno, però ci può aiutare a dare un'idea di quello che sta succedendo. Sì, buongiorno a tutti. Ma il fatto è stato un fatto abbastanza paradossale, nel senso che proprio nella mattina di domenica questo gruppo di informali di persone, non è neanche un'associazione, sono un gruppo di cittadini comasti che ormai da 7 anni tutte le mattine girano per la città per distribuire una colazione e soprattutto per cercare di creare delle relazioni con le persone che vivono situazioni di grave marginalità, che vivono sulla strada. E si trovavano, come ormai da un po' di tempo, nei pressi dell'ex chiesa di San Francesco, che è una zona adiacente proprio alla città murata di Como, una zona centrale, stavano per iniziare proprio a distribuire, come fatto di fatto anche nelle mattine precedenti, la colazione a queste persone, e che si tratta appunto di italiani, di stranieri, insomma ci sono persone di varie nazionalità, e nel momento in cui stavano montando un tavolino che utilizzano appunto per la distribuzione, sono intervenuti i vigili e li hanno minacciati, gli hanno detto di andarsene perché altrimenti sarebbero stati costretti. Mi scusi, la interrompo perché c'è sempre un ascoltatore che giustamente mi scrive: abbia pazienza, lo so, è un tic mentale che ho. Li chiamiamo vigili urbani, in realtà si tratta di polizia locale o polizia municipale, però abbiate pazienza, è talmente nella nostra testa l'espressione vigili che a volte fatichiamo a tirarla fuori, un po' come quando diciamo non ho una lira e la lira non c'è più da parecchio tempo. Certo, però certo. Chiedo scusa all'ascoltatore, probabilmente no. Fa parte della polizia locale e si offende ogni volta che diciamo vigili. Prego. La polizia municipale è intervenuta per di fatto dicendo che avrebbero, data la nuova ordinanza, avrebbero elevato delle multe a tutte le persone presenti se di fatto fosse andata avanti questo, quello che loro hanno definito nei fatti un bivacco, perché la nuova ordinanza riguarda sia il divieto di bivacchi in alcune zone del centro storico, adiacente il centro storico, come proprio la zona in cui si trovavano la distribuzione delle colazioni, o quello che è il fatto di mendicare, insomma, il mendicare in forma statica o in una forma sì, molesta viene di fatto punito con delle sanzioni amministrative. Anche la forma statica, per così dire, cioè quando stai fermo là a chiedere l'elemosina, anche questo viene punito e multato. Viene punito e vi è anche il sequestro degli oggetti utilizzati. Mentre invece la multa per la quale sono state minacciate questi cittadini di Como è per bivacco. Perché il fatto che si creasse questo capannello di persone in questa zona veniva comunque identificato come un bivacco e quindi punibile da questa nuova ordine. Senta, l'amministrazione comunale che abbiamo provato ad avere ospite, sia il sindaco che il vice sindaco, poi evidentemente ci sono stati dei problemi all'ultimo minuto per cui non sono potuti intervenire, dall'amministrazione comunale ci fanno capire che c'è stato un po' una lettura larga di quest'ordinanza da parte della polizia municipale. E voi che cosa pensate? Cioè che in realtà l'ordinanza non è così brutale e i vigili sono stati un po' troppo tosti. La polizia locale, scusi, allora, è sempre lo stesso errore. Mi sembra un po' uno scaricabarile nei confronti della polizia municipale. Poi io non ero presente, quindi posso anche credere al sindaco nel momento in cui dice che sono stati troppo zelanti e la polizia municipale. Il dato di fatto è che l'ordinanza è stata fatta e che rientra di fatto in un giro di vite che la nuova amministrazione a Como ha fin dal suo insediamento di fatto nello scorso mese di giugno ha iniziato ad applicare che è di fatto di grosso contrasto di tutte quelle che non sono, verrebbe quasi da dire una sorta di guerra ai poveri, nel senso di un tentativo di allontanare dal centro storico tutte quelle che sono le forme di marginalità. Senta, però c'è un altro punto che viene sottolineato, leggo qualche parte sui quotidiani dall'amministrazione comunale, ed è il fatto che in realtà queste persone potrebbero avere dei ricoveri notturni a disposizione e però non ci vanno. Ma su questo sono meno categorico, nel senso che a Como sono state aperte, c'è il classico rifugio per invernale per i senza fissa dimora che si chiama Emergenza Freddo, che funziona e che è tra l'altro molto vicino al posto in cui sono state distribuite le colazioni, ed è possibile che molte delle persone che poi erano lì per tentare di ricevere la colazione erano uscite di fatto da questo ricovero notturno, che è gestito da una serie di associazioni e si trova in alcuni locali messi a disposizione dalla Caritas, anche con il contributo, un piccolo contributo del comune. Però di fatto non è che questi ricoveri siano vuoti, anzi è possibile che qualche sera ci sia qualche posto vuoto, ma a Como si è dovuto ricorrere ad alcuni tendoni aggiuntivi proprio alcune settimane fa per dare un riparo a dei migranti che erano senza, molti dei quali, la stragrande maggioranza dei quali regolari, ma senza un posto dove dormire, che si erano rifugiati in un autosilo, in quello che è l'autosilo della Valmulini. E su questo l'amministrazione comunale, di fatto, la soluzione a questa situazione si è trovata grazie al coinvolgimento tanto delle associazioni più che dell'amministrazione comunale. Che ci tengo a sottolinearlo, negli ultimi giorni ha investito 20.000 euro per costruire delle barriere che impediranno di fatto con la prossima primavera alle persone di tornare in questo autosilo. Che non dico e non giustifico il fatto che la gente vada a accamparsi in un autosilo, ma che la risposta di un'amministrazione sia quella di costruire delle barriere spendendo 20.000 euro e non mettere questi soldi a disposizione di un'accoglienza più degna, anche dei senza fissa dimora italiani, credo che sia un dato di fatto. La ringrazio che qua ci chiede chi sta parlando da Como. Michele Luppi fa parte del gruppo Welcome, Osservatorio Migranti di Como. Ci dite, il sindaco di Como è un bravissimo medico, ex responsabile di non so cosa. Guardi che il sindaco di Como l'abbiamo cercato e il sindaco di Como non ci ha risposto, va bene, non è potuto intervenire, non ha voluto intervenire, adesso in tutta sincerità non lo so, quindi come vede poi abbiamo... microfoni aperti, nel senso che quando l'amministrazione di Como vorrà intervenire su questo tema siamo a disposizione. Qualche ascoltatore dice ogni giunta sceglie la sua linea e va avanti così, sì effettivamente così, e infine non credo che il tema, e lo dico all'ascoltatore, non credo il tema siano le autorizzazioni e le abilitazioni per dare alimenti come succede nelle sagre, qua si tratta di dare un bicchiere di latte caldo a della gente che più o meno dorme per strada. Comunque quando l'amministrazione di Como ci vorrà rispondere ci siamo. Traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.